L'alba è un'amante magica. Lasciarsi dondolare dal destino è uno scherzo in confronto al superfluo che ci ha sotterrato. Favola allucinogena, pagine bianche. La strada di casa è un gioco d'azzardo. Per vivere una giornata vera basterebbe un miraggio. Aspetto che arrivi la fine del mondo a liberarmi.